www.radio3pod.rai.it. It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce. La fabbrica di polli aleggia ovunque l'inquietudine dell'esistere. Kappa e Drago ascoltano il discorso ufficiale dell'amministratore delegato. Oh Drago, vedi? Cosa oggi c'è? È il grande giorno del reinsediamento dell'amministratore delegato a capo della fabbrica. Ah sì? Vedi? È chiarissimo, è evidente. Si deduce chiaramente da tutti questi loudspeaker che sono stati attaccati in soffitto di fabbrica. No, scusa, cos'è che è stato appeso, attaccato? Loudspeaker. Altoparlanti, Drago. Altoparlanti. Carissimi operai, impiegati, quadri e dirigenti della fabbrica di polli, sono felice di rivolgere a voi tutti questo messaggio di auguri alla ripresa dell'attività dopo la meritata pausa. Sono orgoglioso di essere nuovamente seduto al mio posto di comando e di vedere che tutti voi avete ripreso il vostro lavoro con vigore ed entusiasmo. Come avete avuto modo di constatare prima della temporanea chiusura della fabbrica, alcuni vostri colleghi hanno ricevuto da me il ben servito e non sono più fra di voi. Il loro apporto al risultato finale consolidato al 31 di dicembre è stato ritenuto inadeguato ed ecco che i vostri ex colleghi, mentre voi siete felicemente al vostro posto di lavoro, sono per la strada a rimuginare sulla loro inutilità. Il mio ottimismo per l'anno che si è appena aperto è alle stelle, carissimi. Nuove idee si sono come sempre affacciate alla mia mente durante gli scorsi mesi e presto vi accorgerete di quante innovazioni saranno apportate alla nostra meravigliosa attività. Solo per farvi un esempio, ho deciso che dalla prossima settimana i corrimano delle scale B ed F verranno tolti e riverniciati in colore ginseng al posto dell'attuale vermiglio. Le modifiche strutturali all'ambiente lavorativo sono solo una delle priorità che ho deciso di perseguire e che fanno parte del nuovo corso che il management della fabbrica di polli seguirà dopo la sperimentazione da me personalmente fatta nello scorso anno. Il New Age Management Way of Running an Operational Integrated and Conglomerated Profit and Loss Reaching the Batteries and Changing the Batteries Completion. So che a voi queste parole suonano strane, ma non preoccupatevi, sudditi carissimi. Il vostro amministratore delegato è solo lui, sa di che cosa sta parlando. Vedrete, sotto la mia guida realizzerete il sogno della vostra vita, poter lavorare senza lo stress di dover pensare a ciò che fate in totale automatica abitudine. Le innovazioni tecnologiche che realizzerò per voi nei prossimi mesi vi aiuteranno ad abbandonare sempre di più la noiosa e stressante necessità di pensare a ciò che fate. Carissimi, io digitalizzerò, automatizzerò, i processi integrerò, implementerò la comunicazione attiva e quella passiva, investirò, innoverò, e poi farò quel che vorrò, sempre di più, col naso in su, guardando giù, spostando qua, cambiando là, facendo sempre ciò che mi va, e parlerò di tutto un po', alla TV, col mio Bluetooth, al cellulare, per poi viaggiare, coi soldi vostri, miei brutti mostri, che lavorate e non parlate, se no vi caccio o vi taglio un braccio, perché io sono il delegato, il vostro capo, qui designato a comandare, come mi pare, e se preferite, a delegare, che poi lo stesso, state in campana, perché io sono un Montagabbana, davanti rido, e poi vi stronco, ora sono stanco, di raccontare a chi non può capire. Ebbene, cari operai, impiegati, quadri e dirigenti della fabbrica di polli, a tutti voi un sincero augurio di buon lavoro. Delegado, te somos gratos que cada dia nessa fábrica é um carnaval. Administrador, delegado, te somos gratos que cada dia nessa fábrica é um carnaval. Cada dia nessa fábrica é um carnaval. Cada dia nessa fábrica é um carnaval. Attenzione, i polli K e Drago. Ripeto, i polli K e Drago sono desiderati al reparto nutrizione forzata. Ma come sarebbe a dire reparto nutrizione forzata? Già, e poi chi sono i polli K e Drago? Beh, siamo noi. E come noi? K e Drago chi sono? Noi. E allora? Ma noi non siamo polli. Sì, vabbè, ma vaglielo a spiegare ai burocrati della fabbrica. E dov'è il reparto nutrizione forzata? Perché tu ci vuoi andare? No, forse meglio. Appunto, cerchiamo di disperderci tra la folla. Sì, io sono 2 metri e tu 1,90, è facile. Vabbè, abbassiamoci, no? Dai, stavolta sono io a dirtelo, stai giù, dai. Uè, capa. Drago. Ma cosa fate qua in basso, No, stai zitto, qui siamo in incognito. Shh, pollo, per favore, non chiamarci per nome. Perché? Ma perché vogliono nutrirci a forza e poi farci ingrassare per poi macellarci. La macellazione di K e Drago. No, qui però c'è un problema adesso, eh. Cosa c'è? È un problema che ha un conflitto di interessi. Ma quale conflitto, quali interessi? Eh sì, come no? È perché io sono pagato dalla fabbrica per spronare le galline ovaiole a fare più uova. Quindi io in teoria dovrei anche consegnare voi due al reparto nutrizione forzata, eh? Cosa c'entra? Scusa, poi noi siamo amici. Amici, adesso diciamo i paroloni. Ma come i paroloni? No, ma scusa, Pollo, appunto. Ma cioè, cosa? Amici. Ma mettetevi voi nei miei panni, no? Nei panni di chi? Mettete che qualcuno viene a scoprire che io vi ho aiutati, no? Poi magari ci vado in mezzo io. No, scusa, Pollo. Proprio tu che sei arrivato alla rispettabile età di 44 anni. Appunto. Grazie all'aiuto di un pollo impiegato all'ufficio esecuzioni che è un bastardo e sposta sempre la tua pratica in fondo al cassetto. Perché tu lo paghi, quindi con soldi. Allora, intanto c'è una bella differenza tra essere aiutati e aiutare. Però appunto il Nuovo Testamento, Gesù Cristo, Anna Arendt. E soprattutto Anna Arendt. Chi? Ma sì, è filosofia, Drago. Allora, la mia unica filosofia è quella di pararmi il culo. Hai già la coda per quello, no? No, e hai anche il becco, visto che hai una faccia da... Sì, perché io il becco ce l'ho. Lo so. E c'ho anche un becco che voi lo sapete. Sì. E K, la sua faccia da... ce l'ha lui. Vabbè, dai, non fare nomi, sempre lì a dire K, Drago, Drago, K. I polli K e Drago sono desiderati al reparto nutrizione forzata. Uè, eccoli! Ma cosa fai, Pollo? Eccoli, cosa sta facendo? Ma zitti, ma che K e Drago? Un calcio! Uè, allora! Uè, scusate ragazzi, ma qui è così, qui è morto a vita mea, Ma lo sai almeno cosa vuol dire? Certo. Cosa vuol dire? Cioè, che io mi devo parare il culo. E noi? E voi, pazienza. Ti devo dire. Comunque devo andare. Poi ci si vede. Ciao. Che cosa succederà adesso? K e Drago sono destinati a finire davvero al reparto nutrizione forzata. Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani su Radio 3 per il prossimo pantagruelico allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non chiude. programma di K e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com.